331. Trippa col sugo. La trippa, comunque cucinata e condita, è sempre un piatto ordinario. La giudico poco confacente agli stomachi deboli e delicati, meno forse quella cucinata dai milanesi, i quali hanno trovato modo di renderla tenera e leggera, nonché quella alla corsa, che vi descriverò più sotto. In alcune città si vende lessata e questo fa comodo. Non trovandola tale, lessatela in casa e preferite quella grossa cordonata. Lessata che sia, tagliatela a strisce larghe, mezzo dito, e asciugatela fra le pieghe di un canovaccio. Mettetela poi in una cazzaruola a soffriggere nel burro e quando lo avrà tirato, aggiungete sugo di carne, o non avendo questo, sugo di pomodoro. Conditela con sale e pepe, tirate la cottura più che potete e quando siete per levarla, gettateci un pizzico di parmigiano. 332. Trippa legata con le uova. Lessate e tagliate la trippa come quella della ricetta precedente. Poi mettetela al fuoco in un soffritto di aglio, prezzemolo e burro, conditela con sale e pepe e quando la credete cotta, legatela con uova frullate, agro di limone e parmigiano.